Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com. Correva l'anno 1915. La Germania era già in guerra da un anno. In quell'estate, un giovane tedesco in divisa stava terminando il suo periodo di addestramento in una caserma di Berlino, in attesa di essere mandato a combattere sul fronte russo. Il suo nome era Hans Leip, un amburghese con spirito più poetico che guerriero, che si dilettava di letteratura e poesia e che durante i tediosi mesi di caserma scrisse un poemetto dai toni blandamente antibellici che descriveva la nostalgia di un giovane soldato come lui per una ragazza che aveva dovuto lasciare per indossare la divisa. Il poemetto si intitolava La canzone di una giovane sentinella e la protagonista si chiamava Lili Marlene. Leip ricavò questo nome combinando quello della sua fidanzata Lilly con Marlene, che era il nome della fidanzata di un suo amico. Davanti alla caserma c'è un lampione. Là ci rivedremo. Staremo accanto al lampione come una volta, Lilly Marlene. Le nostre due ombre sembravano una sola. Già da quello si capiva quanto ci amavamo. E tutti dovranno vederci di nuovo accanto al lampione, come una volta, Lilly Marlene. Il capoposto chiamava. Suonano la ritirata! Può costarti 3 giorni di punizione! Camerata, vengo subito! E in quel momento ci dicevamo arrivederci. Quanto volentieri invece me ne sarei venuto via con te, Lilly Marlene. Il soldato Leip riuscì a tornare vivo dalla guerra e continuò a scrivere racconti e novelle. Viaggiò molto ed ebbe una carriera pubblicistica dignitosa, anche se complessivamente non di primissimo piano. Morì in Svizzera all'età di 90 anni nel 1983. Della ragazza che tutte le sere stava sotto una lanterna nei pressi di una caserma, si sarebbe probabilmente persa ogni traccia se nel 1937 il poemetto non fosse stato inserito in un libricino di odi patriottiche, attirando l'attenzione di Norbert Schulz, un compositore tedesco ben inserito nel sistema di propaganda nazista, sempre alla ricerca di nuove idee per il suo lavoro. Nel 1938 il musicista completò la partitura ed affidò la parte vocale all'Ale Andersen, che era la cantante tedesca che in quel momento andava per la maggiore. Il disco uscì di lì a poco per la casa discografica Apollo Verlag, con il titolo originale La ragazza sotto il lampione, e solo nel 1939 la canzone fu chiamata Lilly Marlene. Signora Anderson, quando ha cantato Lilly Marlene per la prima volta? Fu nell'anno 1938. Quando si è accorta che la canzone sarebbe diventata così popolare? Quando la trasmittente di Radio Belgrado cominciò a suonarla ogni sera, e questo accadde nel 1941. Pensa che Lilly Marlene sia stata una canzone di guerra o una canzone triste che ricordava ai soldati l'inutilità della guerra? Penso che Lilly Marlene fosse una canzone d'amore e una canzone di addio. E durante la guerra ci sono naturalmente più addii fra i giovani che in qualsiasi altro periodo. Le parole fanale e caserma parlavano della vita di un soldato e penso che queste due parole fossero proprio quelle giuste per dare espressione ad una canzone in tale periodo, una canzone che toccasse il cuore di tutti i giovani. Fu un fiasco clamoroso, 700 copie vendute e canzone finita nel dimenticatoio, anche perché la guerra era alle porte e la storia di un soldato che invece di pensare ad ammazzare i nemici rivolge il suo ricordo struggente ad una ragazza ormai lontana non rispondeva assolutamente agli stereotipi guerrafondai dell'epoca, tanto cari alla propaganda nazista. Ma Schulz non si diede per vinto e continuò la sua attività di musicista di regime, adattandosi all'epoca e componendo marce militari e canzoni di guerra, tra le quali spicca la truce Bomben auf England, che accompagnava le incursioni aeree dell'aviazione tedesca sulle città britanniche e che contrastava non poco con il contenuto e la struttura musicale di Lili Marleen. Epurato nel 1945 dalle autorità alleate, Schulz riprese a comporre già nel 1948 ed ebbe una discreta carriera come compositore di colonne sonore cinematografiche. Morì nel 2002 all'età di 91 anni. Wir machen der Gruppe sich auf, wenn der Belgrad. Angeschossen der Kurzwellensender Lili Marleen auf Welle 31,65 Meter. Wir grüßen unsere Hörer. Lili Marleen ebbe la sua trionfale rivincita a partire dal 1940, quando le sue note e il suo testo iniziarono a diffondersi tra i soldati dell'Afrika Korps impegnati sotto il comando del maresciallo Rommel nella campagna d'Africa. Una delle poche copie vendute del disco della Andersen era finita al seguito delle truppe tedesche e ben presto la canzone, ritrasmessa da una radio militare, divenne molto più di una hit e si trasformò in una specie di inno non ufficiale delle truppe tedesche impegnate in Africa. La canzone non piaceva né a Hitler né a Goebbels e per qualche tempo venne addirittura proibita in quanto il suo testo era giudicato disfattista. Di diverso avviso invece erano i soldati impegnati sui fronti di guerra e soprattutto era di diverso avviso il maresciallo Rommel, al quale la canzone piaceva, e quindi per qualche giorno ci fu uno scontro tra i vertici militari e politici di Berlino per questa canzone, e alla fine la canzone fu reintrodotta nel palinsesto delle stazioni militari tedesche. Nel 1941 invece, dopo l'occupazione tedesca della Jugoslavia, fu inaugurata la potente stazione radiofonica Soldatensender Belgrad, che trasmetteva informazioni, propaganda e intrattenimento per le truppe tedesche impegnate sui vari fronti di guerra, e a dirigerla fu chiamato il tenente Karl-Heinz Reingen, che su segnalazione di un suo amico dell'Afrika Korps e con un certo sprezzo del pericolo inserì Lili Marleen nel palinsesto della stazione e ne divenne addirittura il segnale di chiusura delle trasmissioni che terminavano giornalmente alle 21:55. Es wäre eine banale Sache, wenn wir diese Platte nicht beenden würden mit der Melodie und der Stimme, die Millionen von Menschen in aller Welt kennen, mit dem allabendlichen Lied des Soldatensenders Belgrad. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Naturalmente anche dall'altra parte del fronte si ascoltava la radio e i soldati alleati apprezzarono anch'essi la musica e il testo di Lili Marleen, che ricordava loro la vita da civili, le cose semplici di una vita normale che dopo tanti anni di guerra sembravano ormai lontanissime, se non addirittura perse. Ovviamente anche i comandi militari alleati non è che fossero particolarmente felici del fatto che i loro soldati cantassero una canzone in lingua tedesca. Così corsero ai ripari e nel giro di alcune settimane uscirono delle versioni nelle varie lingue nazionali di Lili Marleen, che divenne così una hit internazionale. Ed è per questo motivo che ancora oggi Lili Marleen è associata soprattutto al nome di Marlene Dietrich, la cantante e attrice tedesca notissima negli anni 30, ma anche in quelli successivi, che in polemica con il nazismo abbandonò la Germania per risiedere stabilmente negli Stati Uniti. Ebbene, la sua versione in inglese di Lili Marleen fu cantata dal vivo alle truppe alleate che avevano occupato Berlino nel 1945 ed è questa forse la versione più celebre di questa canzone. Outside the barracks by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through, for you, Lili Marleen, for you, Lili Marleen. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lili Marleen, with me, Lili Marleen. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lili Marleen, for you, Lili. La versione italiana di Lili Marleen, invece, è legata alla voce di Lina Termini, una giovanissima cantante che qualche anno prima aveva vinto un concorso dell'EIAR e che si andava imponendo in quegli anni come una bellissima voce della canzone italiana. La sua carriera tuttavia non durò moltissimo, perché nel 1944 si sposò e decise che non sarebbe mai più ritornata sulle scene. La redazione del testo in lingua italiana fu invece affidata a Nino Rastelli, un paroliere già molto noto all'epoca. Una canzone per tutti, Pippo non lo sa, composta negli anni 30, oppure La famiglia Brambilla, C'è un uomo in mezzo al mare. I più anziani penso ricorderanno questi titoli, ma nel 1952 la sua apoteosi insieme a Nilla Pizzi con Papaveri e Papere. E successivamente Rastelli ha collaborato anche con Teddy Reno e nel 1960 scrisse per Peppino Di Capri Nessuno al mondo. Un bravo paroliere, scomparso purtroppo prematuramente nel 1962. Tutte le sere sotto quel fanal, presso la caserma ti stavo ad aspettar, anche stasera aspetterò e tutto il mondo scorderò con te, Lili Male. Moltissime nel corso dei decenni le versioni di Lili Marlene eseguite in ogni parte del mondo. Un'altra grande voce femminile italiana, Milva, l'ha eseguita nel 1987 pubblicandola in un suo long play. Unsere beide Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst die Lima. Ma la canzone ha ispirato anche opere teatrali e cinematografiche. E non potevamo concludere questa trasmissione che citando il film omonimo Lili Marlene, diretto nel 1981 da Rainer Werner Fassbinder, che si ispira all'autobiografia della cantante Lale Andersen. Ricordate, è la prima ad eseguire questa canzone nel 1937. Il titolo della sua biografia è Il cielo a molti colori e il film ripercorre appunto le vicende biografiche di Lale Andersen. A proposito della cantante, dobbiamo aggiungere che dopo diversi anni che il regime nazista la utilizzò la sua immagine e la sua musica per la sua propaganda, ebbe una serie di problemi abbastanza gravi con il ministero della propaganda di Goebbels. Infatti fu intercettata una sua lettera a un impresario di origine ebraica di Zurigo e in base a questa lettera venne sospettata di alto tradimento. Venne in pratica confinata in casa per circa 9 mesi, non poté più recitare o cantare né nei teatri né alla radio e solo successivamente le fu consentito di riprendere parzialmente la sua attività, con l'impegno che non poteva cantare in pubblico Lili Marlene, che nel frattempo era stata dichiarata a tutti gli effetti illegale perché disfattista. Però accadeva una cosa strana, una cosa bellissima: anche se la cantante non poteva eseguire questo suo famosissimo brano, alla fine del concerto molto spesso era il pubblico che intonava questa canzone. Poco prima della fine della guerra, la cantante si ritirò in un'isola del Mare del Nord e solo successivamente alla liberazione avvenuta ritornò in Germania e gli alleati la utilizzarono a loro volta come arma di propaganda, reinserendola nel circuito radiofonico tedesco. Dummes Gefühl. Deckung! Warum hast du das getan? Alles mir nach. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lene, mit dir. Jeder kennt das Lied, keiner kennt seine Geschichte. Lili Marleen. E a proposito di questo film, non possiamo non citare la partecipazione come attore coprotagonista di un bravissimo Giancarlo Giannini. Su Lili Marleen hanno provato a metterci il cappello in tanti. È la dimostrazione di un brano ormai universale che ha attraversato due secoli. Ricordiamo che sono trascorsi 105 anni dalla sua composizione sotto forma di poema e oltre 80 dalla sua trasposizione come brano musicale che ne ha decretato il successo universale. Ognuno tenta di stiracchiarla dalla propria parte perché ovviamente anche questa canzone ha avuto forti connotati politici e li ha tuttora. Noi ricordiamo una composizione che ha saputo toccare il cuore di milioni di persone e che resterà ancora per molti, molti anni nel cuore di tutti. Grazie per l'ascolto. Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com.